Letture di Radio 24. Chissà cosa deve aver pensato il proprietario di quell'auto parcheggiata in divieto di sosta nella zona della Movida milanese. Vedendo il pezzo di carta tenuto fermo sul vetro dal tergi cristallo, la mente sarà sicuramente andata alla possibile multa. Ma quando si avvicina, ecco invece un invito a rispettare i divieti. Lo scontrino è un foglietto di 10 cm per 4, elaborato al computer, stampato su una carta liscia e leggera. Minaccia una multa, infrazione rilevata in assenza del proprietario del veicolo. Cita l'articolo corretto del codice della strada, sostava in località permanentemente vietata. L'infrazione è vera, ma la multa è un falso, o meglio, una provocazione. Chi ha lasciato il verbale sull'auto non è un vigile, né un ausiliare, è un giustiziere della sosta. Il cittadino qualunque. Abita nel quartiere e da residente avrebbe diritto a parcheggiare nelle strisce gialle. Avrebbe, perché le regole nel fine settimana saltano. La movida è incontenibile, invade le strade, ruba spazio e gli abitanti, scalzati dai clienti dei locali, ora si sostituiscono ai ghisa, giustizieri appunto. L'ultimo comitato civico si presenta senza troppi dettagli su un sito internet dedicato, servimi.it. L'indirizzo è indicato sulla testa del finto verbale. C'è una foto di macchine e scooter posteggiati abusivamente tra gli alberi. In alto l'avviso. Per questa volta ti è andata bene. È qui, sul sito, che viene svelato il senso dell'operazione. Gentile automobilista, questa è un'iniziativa di sensibilizzazione. Se stai leggendo questa pagina, significa probabilmente che hai parcheggiato in divieto di sosta, ostacolando, oltre che gli altri autoveicoli, il passaggio di pedoni, passeggini e diversamente abili. Ti invitiamo a prestare più attenzione. Una Milano più vivibile dipende anche da te. Servimi è il nome del fantomatico settore comunale Servizi per Milano. Un bluff. Credibile, però. I tagliandi sono ben fatti. Il sistema ricalca fedelmente la sezione Multa Semplice, disponibile sulla pagina web comune. È talmente verosimile che disorienta e allarma gli automobilisti puniti. Ho telefonato al call center di Palazzo Marino, all'ATM e al comando dei vigili di zona, racconta Claudio D'Amico, 29 anni, uno dei sanzionati di Via Tortona. Nessuno ne sapeva nulla. Il distretto di Via Tortona e Via Savona è uno dei punti caldi della movida milanese. Il comune risponde con 13 pattuglie dedicate ai quartieri del divertimento notturno. L'ultima arma in dotazione alla polizia locale è l'impianto elettronico Street Control, installato sulle auto in servizio, il sistema per le multe a strascico. Quante siano, non è dato sapere. Il comune non ha mai comunicato dati ufficiali. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Auto in sosta vietata trova la multa, ma è un invito a rispettare i divieti, di Armando Stella, dal Corriere della Sera di mercoledì 18 maggio. Letture di Radio 24. Ascoltiamo la lettera di Mario Melazzini, disabile e presidente dell'associazione Aisla Onlus, all'Avvenire, in cui racconta la sua esperienza da elettore disabile. Una vera e propria corsa ad ostacoli, tra barriere architettoniche e inefficienze urbanistiche. Domenica 15 maggio, verso le ore 13, mi sono recato al seggio per esprimere il mio diritto di voto alle elezioni amministrative di Milano. Sono una persona con grave disabilità in carrozzina, malato di sclerosi laterale amiotrofica. Diritto di voto, così si dice. Purtroppo questo mio diritto si è tramutato in una corsa a ostacoli. Per raggiungere il mio seggio ho tentato di utilizzare il montascale. Non funzionava. Poco male, ho pensato. Utilizzerò l'ascensore. Ma per arrivarci avrei dovuto salire alcuni gradini. Così, 4 ore dopo aver lasciato il seggio senza essere riuscito a votare, verso le 17 sono stato ricontattato e informato del fatto che al seggio, nel frattempo, era stato portato uno scoiattolo, un piccolo montascale tramite cui avrei potuto dribblare le barriere architettoniche e votare, come tutti gli altri, nell'apposita cabina. Questa semplice esperienza ancora una volta mi ha fatto riflettere. Innanzitutto, non è vero che tutti i cittadini nel nostro paese godono della medesima libertà di vivere e delle stesse opportunità. Molte volte la disabilità è ancora un fattore di esclusione, isolamento e discriminazione nella nostra società, che per questo non può ancora dirsi fino in fondo civile. Non dimentichiamo inoltre che anche la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata nel nostro paese, riconosce il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone. La malattia è una condizione possibile dell'esistenza di ciascuno di noi e ognuno, in un contesto sfavorevole, può diventare persona con disabilità. Partendo da questo presupposto, le persone con disabilità non dovrebbero essere neppure oggetto di provvedimenti specifici o ad hoc, che se da una parte consentono un livello minimo di partecipazione sociale, dall'altro rimarcano la condizione altra, diversa di queste persone rispetto al resto della popolazione. Per questo mi chiedo, perché non favorire realmente l'affermazione e la possibilità di espressione, completa e compiuta, della libertà di ciascuno di noi? Credo infatti che di questo si tratti. Questo mio racconto non ha come semplice scopo la rivendicazione di un diritto. Parte dal riconoscimento della condizione della fragilità umana e vuole affermarne il valore e con esso quello della persona stessa. Il problema dell'accessibilità e fruibilità del territorio e dei servizi è una questione che riguarda tutti. In questo senso le istituzioni hanno il compito di favorire un ambiente in cui chiunque possa affermare la propria iniziativa in tutti gli aspetti della vita, permettendo di esercitare la libertà di ciascuno in ogni settore della società. La vera uguaglianza è solo nella libertà. Avete ascoltato la lettura della lettera di Mario Melazzini, Il mio voto avventuroso di cittadino disabile, pubblicata dall'Avvenire di lunedì 23 maggio. Più passa il tempo, più le professioni antiche spariscono. Gli ombrellai sono rimasti 8, gli arrotini sono crollati del 24% e le ricamatrici sono quasi tutte al sud. Sono solo 30.000 i lavoratori che si dedicano alle antiche professioni, ma tra questi cresce a sorpresa una fumosa professione. Se piove, peggio per voi. Potete recuperare un ombrello, sempre che non ve lo rubino, agli angoli della strada. Ve lo vendono per pochi euro e dura quanto un usa e getta. Ma se volete farlo riparare, è quasi impossibile. Gli ombrellai in Italia sono rimasti in 8. A Massino Visconti, invece, dalle parti di Novara, dell'Usciat, l'ombrellaio appunto, è rimasto solo il monumento, a ricordo della fatica di vivere di chi, un paio di secoli fa, lasciava casa e famiglia per sistemare ombrelli in giro per l'Europa, perché era questo che offriva il mercato. Sulla frontiera liquida del lavoro che cambia è rimasto un piccolo esercito, una linea del Piave, a difendere il mestiere dei nonni, quello che definiva un'identità, stabiliva dei ruoli, metteva ogni cosa al proprio posto. Sono 30.000, una riserva indiana di arrotini, ricamatrici, spazzacamini, giostrai, professionisti del lavoro di una volta, coriandoli di nostalgia, quasi completamente estinti, ma che forse torneranno richiamati dalle nuove povertà che si nascondono nel vivere tecnologicamente avanzato dell'era digitale. In pochissimi, testardi e un po' snob, spiegano le elaborazioni dell'ufficio studi della Camera di Commercio di Monza e Brianza, hanno scelto di continuare la propria attività reinventandosi o allargando il proprio business, orgogliosi di chiamarsi con il nome del nonno. Si identificano con la professione di arrotino 391 imprese in Italia. Sono quasi 15.000 i parrucchieri che preferiscono farsi chiamare barbiere, per lo più in Campania, Sicilia e Lazio, perché la forma è sostanza e le parole, come dice Nanni Moretti, sono importanti. Nell'epoca del fotovoltaico, delle energie alternative, del no al nucleare, sono invece cresciuti, non si sa perché, gli spazzacamini, come li avesse moltiplicati Mary Poppins. Sono solo 274 in Italia, ma è la percentuale di crescita che fa più paura di uno spaventapasseri. Più 62,1% in 10 anni, quasi fosse una professione emergente figlia della new economy, mentre a crollare, e non solo sotto il peso della fatica, sono gli arrotini, 391, meno 24% negli stessi 10 anni. Resistono le merlettaie e le ricamatrici, quasi sempre nel meridione, soprattutto in Puglia e in Sicilia, sentimenti che sembrano persi tra gli oggetti smarriti. E del domani non v'è certezza. Avete ascoltato la lettura dell'articolo «Solo lo spazzacamino ha ancora un futuro» di Massimo Veronese, da Il Giornale di martedì 10 maggio.